Smart City, speciale Saie. Mi pare che il problema della filiera di costruzione in Italia è certo quello delle politiche che hanno un po' bloccato lo sviluppo del settore, ma anche dal fatto che c'è un tasso di innovazione, un percorso dell'innovazione molto più lento che quello che non si è determinato in altri settori che fanno la forza del Made in Italy. Perché? Perché forse c'è la un po' evoluzione o involuzione dell'impresa delle costruzioni, no? Le imprese delle costruzioni si dividono oramai tra poche grandi imprese delle infrastrutture e poi una catena sempre più piccola, sempre più fragile. Manca la forza del Made in Italy, la media impresa che costruiva e oggi è un po' trasformata a volte in una filiera dell'immobiliare che determina, diciamo così, una fragilità. E allora da dove si riparte per mettere innovazione nel settore? Ecco, qui abbiamo pensato, e il SAIE guarda un po' a questo, che l'innovazione possa venire dal lavoro di chi fa ricerca, dalle università, dai professionisti, dai tecnici, che magari possono seminare anche verso le imprese. Buonasera da Maurizio Melis. La voce che avete sentito è quella di Duccio Campagnoli, che è presidente della Fiera di Bologna, che come sapete in questi giorni fino a domenica ospiterà il SAIE, il Salone Internazionale dell'Edilizia. Edilizia che fatica, come abbiamo appena sentito, più di altri settori ad assorbire le pratiche innovative, ad adeguarsi ai nuovi paradigmi. E proprio di questo rapporto, quello tra filiera dell'edilizia e innovazione tecnologica, vogliamo parlare oggi con Marcello Balzani, che innanzitutto è professore all'Università di Ferrara, dove dirige il laboratorio TecneHub, occupandosi di recupero e di restauro di beni culturali, ma è qui in veste di referente scientifico della piattaforma Costruzioni della rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna ed è un po' la testa che ha progettato un'area espositiva che è il forum per la ricostruzione naturalmente soprattutto dopo il terremoto, anche se avete allargato questo concetto un po' a tutta l'Italia, che deve avere al centro sicurezza strutturale, quindi non quella per evitare il furto del ladro, ma sicurezza degli edifici e la loro sostenibilità. Benvenuto Balzani. Grazie. Allora, lei è un ricercatore e quindi parliamo un po' di qual è la capacità di penetrazione delle nuove tecnologie che si vedono ormai in manifestazioni come queste del settore edilizio. Quello che succede è che spesso però fanno molto fatica a passare queste innovazioni. Allora, il problema del settore delle costruzioni è che la filiera è molto lunga. In tutta questa filiera trasferire innovazione è difficile, perché tra chi produce, chi progetta, chi assembla, chi compra, chi vende, chi collauda, ci sono spesso tanti gap. Allora noi abbiamo visto che dopo il sisma l'interesse verso il settore delle costruzioni, che io consideravo un po' inassorbente alla ricerca, no? Perché l'imprenditore edile, il progettista in un momento di crisi così violento tenta di fare altre strade, invece si sta vedendo altro. Noi stiamo accelerando di almeno 7-8 anni questo travaso tecnologico. Negli ultimi mesi i segnali delle imprese che attraverso questi forum che noi stiamo presentando come sintesi collaborano insieme, vediamo imprenditori che prima stavano lontani, che cominciano a avvicinarsi, e l'avvicinamento è per risolvere i problemi di processo, cioè ottimizzare come attaccare una cosa a un'altra. E il forum fa vedere quello, si fa vedere non i pezzi separati, ma un edificio che si sta assemblando, vero, in cemento armato, in legno, nelle tecnologie nuove, in cui le tecnologie innovative si cominciano a agganciare e i laboratori intorno li creano. Quindi abbiamo creato un'immagine che è anche un'immagine, secondo me, di una nuova fiera, perché le fiere del futuro dovrebbero non far vedere i pezzi, ma far vedere i pezzi montati tra loro, come i sistemi collaborano, perché l'architettura, l'edilizia è quello. Ricordo, parlando in questo caso di un'altra fiera, quella di Bolzano di qualche anno fa, che una delle cose che ebbe più successo furono proprio dei capannelli, diciamo, messi all'esterno della fiera, in cui si faceva vedere gli errori che si fanno di solito quando il lavoro di un artigiano finisce e comincia quello dell'altro artigiano. Esatto. Ecco, senta, abbiamo parlato della lunghezza della filiera. Forse un altro aspetto che rende difficile la penetrazione delle tecnologie è anche la polverizzazione della filiera. E poi c'è un ultimo anello, quello della vendita, che è pure quello, insomma. Sì, ecco, allora, la polverizzazione esiste, è legata a tanti fattori, al mercato, anche a come la proprietà italiana non è una proprietà immobiliare. Noi stiamo dicendo che nel mercato difficile l'asticella si deve alzare. Sono asticelle di competenze che riguardano come costruire le case, quindi cantieri trasparenti, competenze del progetto più trasparenti, processi edilizi che si possono vedere, fare, mantenere, quindi anche quelli fatti con certa consapevolezza. Non sono regole normative completamente, perché c'è la normativa che va a verso certi livelli di sicurezza, ma c'è anche un comportamento etico del processo di trasformazione edilizia che il cittadino chiede. Il cittadino oggi ha bisogno di sapere cosa c'è nella sua casa, la verità di cosa c'è dentro il muro. Noi abbiamo venduto le finiture di lusso, e qui torniamo al discorso di come nel settore dell'edilizia io arrivo in fondo e ho un collo di bottiglia che è il mercato della vendita, che non sa trasferire l'innovazione. Nel settore della medicina, nel settore dell'agroalimentare, oggi il cittadino sa più, è più vicino alla cultura specialistica di un vino o di un cibo di alto livello, piuttosto che una casa che, su cui spende cifre spesso esorbitanti, no, rispetto a un buon ristorante. Ed è spesso incredibile. Questa ignoranza del dato l'abbiamo lasciata in mano agli attori della filiera. Insomma, gli attori della filiera sono diventati ignoranti anche loro, a me, negli ultimi anni. E questo è stato il problema. Tra polverizzazione da una parte della filiera e una vendita che non valorizza certe cose, questa assenza di una cultura tecnica diffusa sull'edilizia che c'è in un sacco di settori, quello dell'automobile, ma poi c'è quello di cellulari, computer, quindi esistono le culture tecniche diffuse, non è che è impossibile parlare di questo. Allora, come si fa a far condensare tutta sta roba? È una parola facile, si chiama progetto. Spesso noi procediamo mettendo insieme i pezzi per degli obiettivi finanziari, di interesse, e poi il progetto arriva dopo, quando abbiamo già deciso cosa fare. Ecco, invece la risoluzione del problema è proprio fare il progetto prima. Il coraggio è lì, riprendere in mano il progetto, perché è il futuro, anche per le nuove generazioni, e quello risolve tutta la filiera, perché a quel punto le frizioni si risolvono dentro il progetto. Grazie Balzani. Grazie a voi. Noi ci fermiamo, appuntamento a lunedì con l'ultima puntata dedicata al SAI. Vi parleremo di un progetto italiano di grande successo. Buona serata e buon fine settimana.